Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È la macchina del signor Stacchi? Sì, è quella, signore. Edward, ma dove vai? Hai le chiavi della tua? Perché ti fa schifo la limousine? La limousine è sepolta là dietro, non possono tirarla fuori. Dammi le chiavi della tua. Va bene, senti, non dovresti guidare, sei un po' agitato. E non prendere la mia, aspetta, ci penso io. Ragazzi, vi pare questo il sistema? Volete spostare queste macchine di qui? Senti, Edward, sai guidare senza automatico? Sì. Senti. Sì, sì. Va bene, ti prego, trattala bene, non fare... La macchina è nuova, tu non sai, Edward! Fammi il santo piacere, ti prego! Mi piace questa macchina. Sì, anche a me, neanche conosci la strada, al buio così ti perderai! Beverly's è giù, in basso! Molti di voi certamente ricorderanno questa scena. Richard Gere salta a bordo di una Lotus Esprit color grigio metallizzato, abbandonando con aria vagamente schifata il party che si tiene in suo onore e scendendo giù per le colline di Hollywood verso Beverly Hills e poi alla volta del famoso e famigerato Hollywood Boulevard, il viale sul cui pavimento si susseguono le stelle dedicate alle leggende del cinema. Un luogo prestigioso e insieme di degrado dove il passeggio della Walk of Fame si intreccia a quello più prosaico della categoria delle passeggiatrici, di cui Julia Roberts per ragioni di copione fa parte. Era il 1990 e Pretty Woman già si delineava nel panorama cinematografico come una delle commedie romantiche più riuscite del decennio. La Lotus Esprit, all'inizio degli anni 90, era una delle automobili di lusso più ambite. La sua carrozzeria in vetro resina, disegnata appositamente da Giorgetto Giugiaro, consentiva all'auto di raggiungere i 210 km orari senza che i passeggeri quasi se ne accorgessero. Un vero gioiello di design e meccanica, che Richard Gere sembra non essere in grado di apprezzare. Hai mai guidato una Lotus? No. E allora cominci adesso. Scherzerai? No, così ti alzi dal mio impermeabile. Allacciate le cinture di sicurezza. Ti faccio fare la gita della tua vita. Ti dimostro che cosa può fare questa macchina. Sei pronto? Sono pronto. Reggiti. Ok. Pronti? Via! La Roberts guida il bolide con la sicurezza di un pilota consumato, sfrecciando per le vie losangeline. A bordo di quella Lotus si sente una signora. Un'auto che è un simbolo di ricchezza, di prestigio, e che per molti rappresenta addirittura la misura dei propri traguardi personali. Spesso una macchina sa essere molto di più di un ammasso di lamiere e parti meccaniche. Lotus, marchio prestigioso di automobili di origine britannica, non è l'unico né il primo ad avere pensato di costruire veicoli che si rivolgessero a un pubblico esigente. Il capostipite della dinastia delle auto di lusso viene sempre dall'Inghilterra, ma risale a ben 50 anni prima. Erano gli inizi del secolo, quando nella terra di Albione venivano gettati i primi semi di quella che presto sarebbe diventata la casa produttrice di automobili più ambite del mondo. Ce ne parla Mr. Richard Charlesworth. È qualcosa che va oltre l'essere semplicemente una macchina. Suona quasi sbagliato descrivere la storia della Rolls-Royce come una storia di automobili. Qui non si vendono macchine, si vendono sogni. La Rolls-Royce, dall'inizio del secolo scorso, non produce automobili, ma charme, eleganza, perfezione. La promessa di uno stile di vita tutta racchiusa in quattro ruote. L'automobile più prestigiosa al mondo, la macchina che più di ogni altro nel corso dell'ultimo secolo ha accompagnato i reali e gli aristocratici di tutto il globo in giro per le loro visite di rappresentanza. Un vero e proprio sogno fatto di bulloni, telaio, motore e ruote. Un coacervo di eleganza esteriore e magnificenza meccanica sapientemente costruito a partire dall'idea di un uomo. Anzi, dalla frustrazione, dalla tenacia e dalla voglia di rivalsa di un uomo. Lui è Henry Royce. Henry Royce. In turn of the century London, almost all cars were owned by the wealthy. Nella Londra a cavallo tra il XIX e il XX secolo, le automobili che circolavano erano tutte possedute da qualche riccone. Non erano certo roba per gente comune. È per questo che la storia della Rolls-Royce, simbolo per eccellenza di ricchezza e potere, è una storia piuttosto ironica. Henry Royce, l'iniziatore di una storia tanto prestigiosa, non era certo un figlio dell'alta società. La voce che avete appena sentito è quella di Edward Herman, attore americano appassionato collezionista di auto d'epoca e conoscitore della vicenda di Henry Royce. Il futuro costruttore di automobili nasce il 27 marzo 1863 a Dowelton, nel distretto dell'Huntingdonshire, nel bel mezzo della verdissima campagna inglese. La sua è una famiglia umile ma non indigente, onesta e lavoratrice. Il padre possiede e gestisce un mulino in cui si produce farina almeno fino a quando, qualche anno più tardi, la difficile congiuntura economica non fa sì che il signor Royce sia costretto ad abbandonare l'attività e trasferirsi a Londra in cerca di nuove prospettive. Henry, naturalmente, si trasferisce nella capitale insieme ai genitori e cerca di contribuire alla causa familiare dandosi da fare. Sarà l'ennesimo giovanissimo newspaper boy, il garzone dei giornali che strilla i titoli agli angoli delle strade. Henry impara anche a fare il telegrafista e conquista, grazie alla sua intraprendenza, persino un apprendistato alla Great Northern Railway di Peterborough, azienda ferroviaria che cura la tratta che unisce la stazione londinese di King's Cross alla città di York, passando proprio attraverso le campagne in cui il giovane Henry è cresciuto. L'impiego temporaneo presso la Great Northern Railway segna il suo primo incontro con le macchine e i macchinari, scatenando in lui la passione per la meccanica. Una vocazione sopita, probabilmente innata, che lo spinge a montare e smontare ogni oggetto per capirne da vicino il funzionamento. In quegli anni, il volenteroso Henry viene aiutato economicamente da una zia, che avendo messo da parte qualche soldo, decide di investire su un giovanotto di buone speranze. Ma l'idilliaca condizione di mantenuto, che gli consente di approfondire nel tempo libero le ricerche nel campo della meccanica e dell'ingegneria, purtroppo non dura per molto. A parlarcene è Philip Hall, curatore del museo del Sir Henry Royce Memorial Foundation. Purtroppo anche sua zia finì in cattive acque dal punto di vista economico e non poté più prestargli denaro. Lui dovette badare a se stesso, rimboccandosi le maniche di nuovo. Ormai terminato l'apprendistato alla Great Northern Railway, Henry deve cercarsi un altro lavoro. Il periodo trascorso nella compagnia ferroviaria gli ha permesso di affinare le sue conoscenze in fatto di meccanica, di esplorare con sguardo diverso i meccanismi che compongono i sistemi che lo circondano nella vita di tutti i giorni. Assetato di conoscenze, curioso per natura ed estremamente bisognoso di mantenersi, il giovane Royce fa domanda alla Electric Light and Power Company, grande azienda elettrica presso la quale viene assunto come tester. Non stupisce che diventi bravo in fretta. Se le locomotive dei treni e il funzionamento degli scambi sui binari per lui non avevano più segreti, altrettanto accade coi circuiti elettrici. La sua carriera alla Electric Light and Power Company sembra procedere a gonfie vele, come ricorda ancora Philip Hall. Appena prima del suo 21esimo compleanno, l'azienda fondò una divisione, un distaccamento a Liverpool per portare l'elettricità anche in quella città. Royce non aveva 21 anni ed era già un ingegnere capo. Appena maggiorenne e già carico di grandi responsabilità, Henry Royce lavora con passione e convinzione crescenti. Il problema non sta certo nei dipendenti della Electric Light and Power Company, ma nel mercato. I ricchi di campagna sembrano non avere bisogno di acquistare energia da un'azienda elettrica, perché tutti, nei loro più o meno lussuosi cottage immersi nel verde, possiedono generatori elettrici indipendenti. La divisione in cui lavora Henry è destinata a fallire e il ragazzo ancora una volta è senza lavoro. Perdersi d'animo, tuttavia, non rientra affatto nei suoi piani. Henry non è certo uno sprovveduto e nei lunghi anni di lavoro ha messo da parte qualche cosa. Tanto mestiere e pochi soldi, ma sufficienti per sognare di inventarsi un'attività tutta nuova, partendo da zero. Convince un amico a utilizzare i pur pochi risparmi racimolati con fatica e sacrifici per fondare una piccola azienda tutta loro. Lui aveva da parte 20 pound, cui se ne aggiunsero altri 50 provenienti da un amico. Iniziarono così una piccola attività nel campo dell'ingegneria elettronica, la F.H. Royce & Company. La F.H. Royce & Company altro non è che il primo piccolo, timido, ma indispensabile passo verso un futuro fatto di gloria e soddisfazioni. Quello di Henry Royce è il primo nome ad apparire sull'insegna della nuova attività e per il momento è anche l'unico. Ci vorrà del tempo e molto altro lavoro, perché a quello di Royce se ne affianchi un altro, quello giusto, in grado di fare del neonato marchio un comprovato simbolo di affidabilità e stile a livello non soltanto nazionale, ma internazionale. Second to play. He had appointments to keep, lots of people to meet, and it took 30 hours to make him a day. Un minuscolo ufficio di Cook Street, in un sobborgo di Manchester, reca sul campanello la scritta F.H. Royce & Company. Il piccolo locale funge sia da luogo di lavoro che da abitazione di Henry Royce, indefesso lavoratore incapace di porre una netta distinzione fra le due cose. Royce, oltretutto, non può permettersi di fare altrimenti. Ha investito tutti i soldi che aveva nella nuova attività e non riesce a staccarsene mai, come ci racconta Philip Hall, curatore del museo dedicato alla memoria di Sir Henry. Passava notti, giorni a lavorare. Sembrava non essere mai stanco, non voleva mai esserlo. Era instancabile e molto, molto motivato a lavorare tutto il giorno, tutti i giorni. È come se in qualche modo Henry Royce riuscisse a intravedere il brillante futuro che lo attende e non volesse lasciarselo sfuggire per niente al mondo. A parlarcene è Philip C. Brooks, esperto di storia del Rolls-Royce Owners Club. I think that his economic deprivation... Certamente le sue evidenti carenze sul fronte economico durante gli anni dell'adolescenza lo hanno forgiato, specialmente quando vendeva giornali agli angoli della strada o quando fece il suo apprendistato alla Northern Railway. Era motivato a non tornare mai più a dover vivere in quelle condizioni. Il primo oggetto prodotto dalla neonata F.H. Royce & Company è un semplice campanello, che però nel giro di pochissimo tempo diventa un must-have per tutte le abitazioni signorili. Grazie alla sua esperienza alla Electric Light and Power Company, inoltre, Royce sa quanto i ricchi siano affamati di generatori in grado di procurare una fornitura di energia elettrica indipendente e duratura. Naturalmente ha l'abilità e le competenze tecniche per mettersi a produrli e in breve i suoi generatori diventano famosi per la loro sicurezza e affidabilità. Se i prodotti della F.H. Royce & Company non sono necessariamente competitivi a livello di prezzi di mercato, di sicuro hanno una qualità al di sopra di tutti gli standard. Le sue apparecchiature sono costose, ma rappresentano una garanzia a livello di funzionamento e longevità. Nel frattempo, sul fronte della meccanica è in atto una grande rivoluzione. È all'incirca dall'inizio del XIX secolo che svariati ingegneri e inventori d'ogni sorta tentano di costruire un veicolo che non abbia bisogno di essere trainato da cavalli, ma si muova autonomamente. Ai discutibili esperimenti di automobili a vapore seguono quelli più riusciti di veicoli con motori a scoppio. L'invenzione del motore a combustione interna, infatti, risale proprio alla metà dell'Ottocento. È solo alla fine del secolo, però, che il tutto viene perfezionato grazie all'utilizzo della frizione, dispositivo che consente di far partire un veicolo da fermo senza doverlo spingere manualmente. È questa la chiave di volta della rivoluzione dell'automobile, un cambiamento epocale a cui Henry Royce sembra essere particolarmente interessato. Nel 1901 Henry si compra una piccola De Dion, cui segue negli anni immediatamente successivi un modello due cilindri di Decouville. Si tratta di macchine francesi e Royce le guarda con sospetto, non tanto perché costruite dagli eterni rivali d'oltremanica, ma perché a suo parere non funzionano affatto come dovrebbero. E ormai di funzionamento e di meccanica Henry Royce è diventato un vero esperto, come ricorda ancora Philip C. Brooks. It was noisy, it was temperamental. Quella macchina era rumorosa, testarda. Faceva quello che voleva lei e non quello che avresti voluto che facesse. A volte funzionava, a volte no. Un disastro, insomma. Provò a farla mettere a posto in modo che soddisfacesse gli standard che lui si era prefisso. Ma non c'era niente da fare. L'unica soluzione gli sembrò quella di costruirsi la macchina da solo. È così che è cominciata l'avventura. Per uno come Henry Royce, abituato a sviscerare i meccanismi di qualunque oggetto si trovi sotto il suo naso, fabbricare un'auto da zero, rispondendo ai suoi consueti elevati standard qualitativi, è quasi un imperativo morale. Decise che si sarebbe messo a costruire automobili. Sarebbe stata un'estensione della sua piccola azienda di manufatti elettrici. Un'estensione che ben presto diventerà preponderante. Il 1 aprile 1904, la prima macchina costruita da Henry Royce viene sottoposta a test e i risultati sono strabilianti, come ricorda Richard Charlesworth. L'affidabilità di quella nuova automobile produsse il risultato che la voce si diffuse enormemente, seppure all'interno del circolo ristretto di coloro che in Inghilterra potevano permettersi un'automobile. La voce che le auto fabbricate da Henry Royce siano silenziose e maneggevoli si diffonde tra i gentiluomini con una rapidità impressionante. Se in generale le automobili all'inizio del XX secolo sono un indiscusso simbolo di ricchezza e prestigio, quelle di Mr. Royce hanno il potenziale per fare un ulteriore salto di qualità e diventare il mezzo privilegiato di un'intera classe emergente. Per farlo, però, hanno bisogno di essere pubblicizzate a dovere, seguendo una strategia che solo un abile e coraggioso uomo d'affari e di mondo può conoscere. Lo incontreremo tra poco, qui, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Destini incrociati a Londra e sta seguendo da vicino la nascita di una delle case produttrici di automobili più prestigiose al mondo. È l'inizio del XX secolo e possedere una macchina è un lusso che in pochi possono permettersi. Meno ancora sono le persone che possono permettersi di guidarne una prodotta da Henry Royce, silenziosa, confortevole, meccanicamente impeccabile, praticamente un salotto su quattro ruote. La notizia della perfezione delle automobili costruite da Royce inizia a spargersi con estrema rapidità, fino a giungere all'orecchio della persona giusta, l'uomo che può aggiungere a Royce quel quid che manca. È così che catturò l'attenzione di Charles Rolls, che vendeva automobili a Londra. Un esperto di vendite è in grado di fiutare, di avvertire il profumo di un successo a distanza di miglia. E di certo l'attività di Henry Royce ha tutta l'aria di essere un boccone da non farsi sfuggire per nulla al mondo, anzi di più. È un'opportunità da cogliere al più presto, prima che qualcun altro si accorga della sua esistenza. L'uomo che saprà dare un'ulteriore marcia alle marce delle automobili di Henry Royce risponde al nome di Charles Rolls. Charles Rolls. Rolls incontra Royce al Midland Hotel di Manchester il 4 maggio 1904. A presentarli è un amico comune, al corrente sia del pregio delle auto di Royce che della bravura di Rolls in qualità di venditore. Charles Rolls resta letteralmente folgorato da una Royce 10 con motore due cilindri, nonostante di norma apprezzi di più le macchine che di cilindri ne hanno tre o quattro. Quell'auto però possiede uno charme, un qualcosa di solido e allo stesso tempo etereo, cui nemmeno lui, abile e scaltro venditore, sa dare spiegazione. Ce ne parla Philip C. Brooks, esperto di storia del Rolls-Royce Owners Club. Rolls fu sconvolto dalla perfezione di questa nuova macchina e i due fecero un accordo. Rolls avrebbe venduto tutte le auto che Royce produceva e Royce avrebbe prodotto tutte le auto che Rolls era in grado di vendere. Rolls e Royce uniscono i rispettivi talenti a bordo di automobili lussuose. Uno è bravo a costruirle e l'altro è un asso nel venderle. Una joint venture che scriverà un pezzo di storia e segnerà per sempre i destini non solo di molti guidatori, ma di un paese e del mondo intero. Il destino di Charles Rolls, il cui nome si legherà indissolubilmente a quello di Royce per rappresentare l'eccellenza e il lusso sulle quattro ruote, sembra scritto fin dalla sua nascita. Il piccolo Charles, già nella culla, è immerso in un ambiente che trasuda lusso ed eccellenza. Rolls, infatti, è membro di una nobile famiglia britannica. Il padre John è primo barone di Langtock e discende a sua volta da un'importante dinastia di conti e proprietari terrieri. Frequenta le migliori scuole d'Inghilterra e proprio durante gli anni in cui risiede presso il prestigioso College di Eton, che sviluppa la sua passione per la meccanica, ama sporcarsi le mani rovistandone i motori delle primissime auto in circolazione, smontandoli e rimontandoli per capirne da vicino la composizione e il funzionamento. È questa sua inclinazione a fargli meritare il soprannome di Dirty Rolls. Nel 1894 si iscrive al Trinity College di Cambridge, un'altra delle indiscusse istituzioni britanniche in materia di studi. frequenta i corsi di meccanica e scienze applicate, ma il suo interesse è tutto concentrato su un traguardo ben diverso. Nel 1896, compiuti i 18 anni, Rolls va a Parigi e si compra la sua prima automobile, una Peugeot Phaeton. La leggenda narra che la Peugeot Phaeton di Charles Rolls sia la primissima automobile ad avere mai percorso le strade di Cambridge. Quel che è certo è che nel 1897 Rolls diventa uno dei cofondatori dell'Automobile Club of Great Britain, confermando il suo ruolo di sostenitore entusiasta della nuova invenzione delle quattro ruote. Rolls si laurea in ingegneria a Cambridge nel 1898. Inizia a lavorare prima a bordo di alcune navi e poi in una divisione della London and North Western Railway. Ma è chiaro fin da subito che il suo talento non è tanto quello dell'ingegnere militante, applicato, quanto piuttosto quello di profondo conoscitore del funzionamento dei motori di ogni genere e dunque abilissimo e appassionato venditore. Sono ormai passati i tempi in cui da ragazzino montava e smontava pezzi guadagnandosi il soprannome di Dirty Rolls. Il 13 gennaio 1903, aiutato da un cospicuo investimento iniziale di 6.600 sterline da parte del padre, Rolls apre uno dei primi rivenditori d'automobili di tutta l'Inghilterra, come ci racconta Edward Herman. C.S. Rolls & Company si trovava a Fulham, un quartiere di Londra. Importava principalmente automobili Peugeot dalla Francia e Minerva dal Belgio, e le rivendeva. Nel giro di poco tempo, il rivenditore C.S. Rolls & Company diventa uno dei più celebri e forniti del paese. Un vero e proprio punto di riferimento imprescindibile per tutti i gentiluomini britannici che abbiano intenzione di acquistare un'automobile. Per ora Rolls vende soprattutto macchine francesi, ma non gli dispiacerebbe affatto poter surclassare i cugini d'oltremanica dandosi al commercio di automobili fabbricate in patria. L'occasione gli si presenta nel 1904, quando un amico dell'Automobile Club gli parla di un certo Henry Royce, costruttore di automobili inglesi fino al midollo. È ancora Edward Herman a parlarci del loro storico incontro. Nel 1904 Charles Rolls incontrò Henry Royce per la prima volta. I loro nomi molto presto saranno legati da un trattino e scolpiti sulle carrozzerie delle automobili più belle del mondo. Nel 1904 Rolls e Royce si incontrano per la prima volta. Rolls ha modo di testare la perfezione delle auto costruite da Royce e quest'ultimo si accorge immediatamente della grande esperienza di Rolls come conoscitore appassionato di motori. Rolls è colui che può e sa convincere gli uomini dell'alta società a comprarsi macchine costose. Royce è quello che le macchine costose le costruisce con le proprie mani. Il primo incontro avviene in maggio e in dicembre i due hanno già un accordo. La prima Rolls-Royce della storia, la Rolls-Royce 10HP, viene presentata al salone parigino di quello stesso mese. I due formalizzeranno l'accordo un paio d'anni più tardi, nel 1906, fondando ufficialmente la Rolls-Royce Limited. Ora quello che manca è solo un simbolo in grado di rappresentare ufficialmente il neonato marchio. A parlarcene è Philip C. Brooks, esperto di storia del Rolls-Royce Owners Club. Questa figura femminile rimane un po' avvolta nel mistero. Un mistero che la Rolls-Royce voleva trasmettere. La statuetta che campeggia da sempre sul radiatore di qualunque Rolls-Royce viene comunemente chiamata The Spirit of Ecstasy o The Flying Lady, la fanciulla volante, ispirata a figure classiche come la Nike di Samotracia. Ed è il simbolo del piacere di solcare le strade guidando un'auto silenziosa e affidabile. La ragazza raffigurata esprime tutto il suo godimento con le braccia distese, quasi a imitare un paio d'ali, e lo sguardo fisso sulla distanza da percorrere. Il modello di Rolls-Royce più famoso di sempre, la celeberrima Silver Ghost, è l'incarnazione di questo simbolo. Messa in produzione a partire dal 1907, viene lanciata anche grazie a una corsa, lunga ben 4 mesi e 15.000 miglia, voluta dai due soci sia come promozione che come test. L'automobile, durante il lungo percorso, non dà segni di cedimento. Il mito è appena iniziato. Nel 1908 Rolls e Royce aprono un nuovo stabilimento per rispondere alla domanda crescente di automobili. Ma c'è un'altra passione, oltre a quella per le quattro ruote, che agita le fantasie di Charles Rolls, quella per gli aerei. L'apertura del concessionario Rolls-Royce di New York diventa una scusa per incontrare i fratelli Wright e comprare uno dei loro aerei. Già da qualche anno Rolls infatti si diletta come pilota di velivoli. Il suo socio Henry Royce non è sicuro che gli aerei siano un mezzo di trasporto affidabile e guarda con sospetto alla crescente passione di Rolls per il volo. E se da un lato le sue preoccupazioni sono fondate e tragicamente profetiche, dall'altro invece si riveleranno del tutto errate. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land there's a... Destini incrociati. Destini incrociati ha appena assistito alla nascita della Rolls-Royce Limited, azienda produttrice di automobili di lusso creata dall'unione del talento di due uomini, il costruttore Henry Royce e il venditore Charles Rolls. Rolls, nel corso degli anni 10, scopre un'altra passione che fa concorrenza a quella per le automobili. Si tratta sempre di un brivido legato alla velocità, ma stavolta non ha a che fare con le ruote. Il nuovo capriccio di Charles Rolls sono gli aeroplani. Rolls prende questa passione decisamente sul serio e, un po' come era già successo con le automobili, ne fa una ragione di vita. Cofondatore del prestigioso Royal Aero Club e secondo uomo in tutta l'Inghilterra a possedere un brevetto di volo, nel 1910 è il primo pilota in assoluto ad attraversare due volte la Manica in un unico volo senza soste. 95 minuti di crociera che gli valgono una medaglia d'oro e l'apprezzamento incondizionato di tutti gli appassionati. Ma l'amore di Rolls per gli aeroplani va al di là del piacere della performance e del volo in sé. Il gentiluomo inglese è convinto che il futuro dell'azienda dipenda anche dalla sua capacità di allargare i propri orizzonti ed è per questo che cerca di convincere un riluttante Royce a costruire motori di aeroplani. Ma un ironico, beffardo e tragico destino lo aspetta dietro l'angolo. Nel 1910 Rolls ebbe il tragico onore di essere il primo uomo inglese a morire in un incidente aereo. Durante la fase di atterraggio a bordo del suo velivolo orgogliosamente acquistato dai fratelli Wright, il vento lo coglie con una folata anomala e lo fa precipitare. Royce resta solo alla guida dell'azienda e fa tesoro dell'intuito di Rolls. Nonostante la riluttanza iniziale, costruirà anche motori per aeroplani. Si fida del fiuto del suo ex socio e intuisce le potenzialità di un settore appena nato, come ricorda Richard Charlesworth, esperto di pubbliche relazioni della Rolls-Royce Motor Cars. Negli anni 20 e 30 l'azienda era divisa in due diverse sezioni. Una faceva automobili e l'altra motori per aeroplani. La meccanizzazione della guerra, oltretutto, fa sì che non si combatta più coi soldati a cavallo, ma a bordo di nuovi mezzi. Ed è per questo che a ridosso delle due guerre mondiali, che sconvolgono la prima metà del Novecento, la Rolls-Royce smette di produrre auto di lusso e si dedica ai veicoli da combattimento e ai motori degli aeroplani della Royal Air Force britannica. A parlarcene è ancora Richard Charlesworth. Gli aerei con motore Rolls-Royce battevano qualunque record di velocità. Lo stesso avveniva con i motoscafi, lo stesso con le automobili. Sulla terra, sul mare, nell'aria, poco importava. I motori Rolls-Royce erano vincenti. La Rolls-Royce mette a segno un colpo dietro l'altro. Nel 1931 compra lo storico marchio Bentley, soffiandolo a un concorrente e risollevandolo dalle conseguenze della Grande Depressione. Nel 1933 muore Henry Royce, raggiungendo 23 anni più tardi il suo amico Charles Rolls. Ma ormai, anche senza i due soci fondatori, la compagnia è perfettamente in grado di stare in piedi da sola e di affrontare soprattutto i terribili anni della Seconda Guerra Mondiale. Se il governo britannico ha bisogno di motori per l'aviazione, chi meglio della Rolls-Royce può fornirglieli? L'ormai già storica azienda si traveste da industria bellica e produce motori come il Rolls-Royce Merlin, evoluzione del celebre R-Engine. Il Merlin è talmente efficiente che gli aerei inglesi che lo hanno in dotazione, benché in numero minore rispetto a quelli tedeschi, dimostrano una supremazia schiacciante. Ce ne parla Philip C. Brooks. Se non ci fossero stati quegli aerei, probabilmente l'Inghilterra avrebbe ceduto alla potenza dell'offensiva nazista e gli Stati Uniti sarebbero rimasti soli a combattere questa guerra. Quel motore, a mio parere, ha salvato il mondo e lo ha reso libero. Non c'è niente da fare. Il mondo deve tantissimo al Merlin e non dovrebbe mai smettere di ringraziarlo. La Rolls-Royce ha vissuto la sua fase di transizione. Da fabbrica di auto che fa incidentalmente motori per l'aviazione a gigante dell'aviazione che produce anche automobili. Nel mondo, dopo tutto, molto presto finiranno di spirare i venti di guerra e l'aviazione commerciale sarà la nuova frontiera. Improvvisamente la costruzione di motori per aerei è diventata la parte più importante dell'azienda e c'era una fortissima richiesta per l'aumento crescente dei voli commerciali. La Rolls-Royce seguì quella strada. Nel 2003 parte della Rolls-Royce viene ceduta a due giganti tedeschi delle quattro ruote. Una vera e propria istituzione britannica finisce nelle grinfie di Volkswagen e BMW. Non fu semplicemente una vendita, ma la vendita di un'istituzione britannica a una potenza straniera. E non una potenza straniera qualsiasi, ma una potenza che un tempo rappresentava il nemico. Si trattava di un'azienda straniera che un tempo produceva gli aerei che sparavano contro la Royal Air Force. E questo non piacque per niente agli inglesi. Ma non tutto il male viene per nuocere. I colossi tedeschi delle automobili hanno tutte le intenzioni e l'interesse di mantenere alta la reputazione dei marchi Bentley e Rolls-Royce, sempre al top per quanto riguarda il lusso coniugato a prestazioni da brivido. L'acquisizione da parte dei tedeschi non sembra nient'altro che l'ultimo felice capitolo della ricostruzione della Germania dopo due conflitti mondiali persi uno in fila all'altro. E la Rolls-Royce è perfetta per fare da testimone supremo a questo passaggio epocale. Ci è voluto del tempo per accorgersi che la Seconda Guerra Mondiale è finita ben più di 50 anni fa ed è stata seguita dal piano Marshall fatto per ricostruire sulle ceneri della guerra. Ed è un provvedimento che ha funzionato davvero. Forse questa è solo l'ultima fase di quella ricostruzione. Sì, mi piace pensarla così. It's a new song with a really silly video. It's called Learn to Fly.